Allora, queste che avete visto sono le telecamere di Lugano. Ne abbiamo saltate parecchie, tra cui quelle di McDonald's, perché chi c'era se lo ricorda che non abbiamo potuto usarle, cioè non abbiamo potuto riprendere da lì. Però c'è un percorso che è quello iniziale che si vede nella cartina, che la ragazza protagonista fa, e che è tutto coperto dalle telecamere che avete visto. Dunque, le telecamere di sicurezza sono una tecnologia che serve per controllare, okay? Che è nata per controllare i cittadini. E è frutto di un tipo di mentalità a livello sociale, cioè un modo di pensare che è molto attivo, molto rilevante adesso nella nostra società, che viene chiamata da alcuni società del controllo. Le telecamere di sicurezza sono ovunque, ci sono le telecamere di sicurezza pubbliche, le telecamere di sicurezza private, e ci sono, diciamo, delle leggi differenti che regolano l'utilizzo delle telecamere di sicurezza pubbliche o private. Spesso quelle private sono nascoste, tra l'altro. Noi ne abbiamo usate alcune private, per questo, cioè abbiamo diciamo emulato quelle telecamere private. Alcune non si sono potute fare, molte private sono nascoste. Gli atteggiamenti che noi teniamo di fronte alle telecamere di sicurezza sono spesso molto importanti per i fini a cui verranno usate, per cui verranno usate le immagini che provengono dalle telecamere di sicurezza, che sono frutto della nostra scia, sono dei dati che si potrebbero definire una scia che noi lasciamo nel momento in cui, che so, passiamo per strada, no? Questi dati potranno essere utilizzati in varie maniere, quelli di un centro commerciale in una maniera, quelli delle telecamere dei semafori in un'altra maniera, a seconda sia delle persone che stanno dietro alle telecamere, sia degli atteggiamenti che noi teniamo di fronte alle telecamere. Spesso, ad esempio, le telecamere in un centro commerciale servono anche per fare delle valutazioni, delle statistiche, una profilazione. Anche se non si può parlare di vera e propria profilazione per quanto riguarda le telecamere di sicurezza, e spesso la licenza di utilizzare le nostre immagini noi la diamo inconsapevolmente. Cioè spesso gli atteggiamenti che noi teniamo, come ho detto prima, di fronte alla telecamera, finiscono poi per avere dei risvolti sui fini che avranno, sugli utilizzi che avranno queste immagini, senza che noi lo sappiamo, senza che siamo consapevoli. Sulle telecamere di sicurezza ci sono dei dibattiti tuttora in atto, perché non si capisce bene, anche se hanno avuto un boom, soprattutto dopo il 2001, come tecnologia di sorveglianza, grazie alla paura, e la frase finale del video rende bene l'idea del come sia usata la paura. Adesso ve la faccio rileggere. Beh, insomma, praticamente quello che dice alla fine del video, cosa che adesso non riesco a farvi vedere, dice che si va verso una desolidarizzazione degli individui sfruttando una paura che non ha troppo senso, ok? Le telecamere di sicurezza, appunto, hanno avuto un boom durante gli anni, subito dopo il 2001, quindi la guerra, la famosa paura dei terroristi. Però questo boom ha fatto molto gli interessi di alcune lobby che hanno usato le telecamere e che tuttora usano i risultati di questo loro, hanno seminato e adesso usano quello che hanno seminato, i frutti di quello che hanno seminato. Questo utilizzo delle telecamere di sicurezza, diciamo che ha fatto evolvere una mentalità a livello sociale, che è una mentalità del controllo, della punizione eventualmente, della paura dell'altro, e che porta verso una desolidarizzazione tra individui. Questa frase è una frase che è presa da una mail di alcune persone che parlavano del Freedom Not Fear, che è una manifestazione annuale che è appunto dedicata alla libertà e non alla paura. Questa manifestazione è stata importante, sarà importante anche quest'anno, ci sarà anche quest'anno, perché permette a chi è consapevole di questa cosa, chi magari lavora nella sicurezza, quindi sa che cosa vuol dire lavorare con certe cose, di far capire quanto di fatto l'utilizzo di certe tecnologie che sono votate al controllo e tra virgolette alla penalizzazione, alla punizione del cittadino, sia in realtà una cosa che a livello sociale fa molto male alla società stessa, nel senso che si diffonde un tipo di cultura che non una cultura dell'educazione alla socialità, ma una cultura della paura dell'altro. Ok? E questo ci porta appunto a una desolidarizzazione tra individui, quindi a non fidarci del nostro vicino. Okay? E questo è sbagliato a prescindere. Ok? Poi può avere un valore, dipendere dalle situazioni, ovviamente, però a priori l'uso delle tecnologie in questa direzione è un utilizzo che vizia i rapporti sociali. Ok? La tecnologia è frutto della cultura. Quando si parla di televisione e spazzatura, in Italia ci sono tante persone che parlano di televisione e spazzatura. In Italia non si fa altro che parlare di televisione e spazzatura. In realtà non bisogna prendersela con la televisione, bisogna prendersela con la società. Cioè, se la televisione manda fuori certe immagini, se le tecnologie si sviluppano in questa direzione, è perché c'è una parte di società che, una parte della società che ci campa sopra, nonché vuole diffondere la propria mentalità. La mentalità da cui nasce l'utilizzo sfrenato delle telecamere di sicurezza è già stata criticata sin dal 95 dai surveillance camera players, che sono dei gruppi teatrali che fanno delle performance di fronte alle telecamere, e adesso, ad esempio, in Italia è messa in discussione persino dal garante della privacy l'utilizzo delle telecamere di sicurezza. Quindi, ad esempio, a Londra, per dire, hanno proprio dichiarato pubblicamente che le telecamere di sicurezza non servono a niente. Ci sono gruppi di guerriglia marketing che utilizzano le immagini delle telecamere di sicurezza anche private tramite dei piccoli hack, riescono a prendere i pacchetti, le immagini delle telecamere e poi le riutilizzano per fare guerriglia marketing, quindi per mettere in discussione il ruolo della telecamera, ok? Il ruolo di controllo della telecamera. In realtà quello che ci sta sotto, cioè il problema che ci sta sotto, è un problema proprio di considerazione dell'individuo, di ruolo del cittadino all'interno della nostra società. Cioè il cittadino è diventato un soggetto da controllare, ok? Non è più in luce il fatto che colui che è cittadino ha dei diritti, è in luce il fatto che colui che è cittadino, se vuole avere questi diritti, allora deve essere controllato. E questo è sbagliato, ok? Siamo partiti dalle telecamere di sicurezza, che sono un certo tipo di tecnologie. Adesso passiamo al web 2.0. Web 2.0 è una parola che telecamere di sicurezza ne parlano dal 95. Web 2.0 è una parola nuova, e quindi ci sembra un altro discorso. Non è un altro discorso, perché sempre di tecnologie si parla, di tecnologie usate in certe direzioni. Le varie interfacce che voi vi trovate sul web, un'interfaccia può essere Facebook, un'interfaccia può essere Indymedia, ok? Sono siti internet, sono situazioni virtuali con cui voi vi dovete confrontare. Queste situazioni virtuali hanno certe caratteristiche, sono state create con determinati fini, ok? Alla base di tutto ci sta una caratteristica del World Wide Web, del WWW, che è la pubblicazione aperta, è la possibilità di produrre contenuti. L'utente ha una parte attiva, non è come la televisione, giusto? Cioè l'utente dà i contenuti, dà la propria scia, i propri dati, ok? Vengono forniti dall'utente stesso sul web. Il fatto di essere consapevoli che le interfacce che usiamo per pubblicare sul web sono anche fatte in maniera da sorvegliarci, in maniera da controllarci, è importantissimo nel momento in cui pubblichiamo sul web. L'interfaccia che usiamo per dire una cosa plasma moltissimo il nostro contenuto, e se usiamo un'interfaccia di un certo tipo, come può essere Facebook, noi dobbiamo sapere che quell'interfaccia ha certi limiti, perché se non consideriamo i limiti dell'interfaccia che abbiamo davanti, allora la pubblicazione cioè raggiungere l'obiettivo di comunicare il contenuto potrà essere più difficile, perché il contenuto verrà, diciamo, plasmato dal mezzo che noi utilizziamo, ok? La pubblicazione aperta, che è la caratteristica del World Wide Web, è una cosa bellissima e importantissima, nel senso che è una cosa che ha permesso a moltissime persone di poter di trovare una libera espressione delle proprie idee, ok? Pensiamo a situazioni come la Birmania, situazioni in cui la pubblicazione di quello che succede in manifestazione è una lotta, cioè c'è gente che lotta per riuscire a raggiungere YouTube in Cina per poter dire quello che vuole dire, ok? E poi magari lo dice e nel video c'è una manifestazione con tre facce ben in vista e quelle tre persone due giorni dopo si trovano in un carcere cinese, ok? Non è bello. Senza poi parlare del fatto che YouTube magari in Cina in quel momento è oscurato perché loro non hanno voglia che in Cina lo si veda, però questa è un'altra questione. Quello di cui parliamo oggi è di come oscurare le facce, del perché oscurare le facce e del perché è importante preservare la privacy, preservarsi dalla pubblicazione di dati sensibili, cioè di dati personali che possono ricondurre delle persone durante la pubblicazione online. Al di là dell'ovvietà del fatto che se a me non mi interessa che tu pubblichi la mia foto su Facebook, tu non la devi pubblicare, a prescindere, nel momento in cui c'è un bisogno di pubblicare quel contenuto, ma si vuole preservare i dati sensibili, allora qui entreranno in gioco i metodi e le tecniche che vedremo stasera. Prima però, appunto, come per l'esempio della Birmania, abbiamo bisogno di qualche approfondimento per capire meglio quali sono le dinamiche che si possono creare nel momento in cui si pubblicano dati sensibili sui social network senza avere la consapevolezza di quello che si fa. Un esempio appunto è quello della Birmania. In quel caso la pubblicazione è importante per motivi politici, per preservarsi da un'istituzione repressiva. E allora è anche importante durante la pubblicazione preservare la privacy delle persone, perché quella stessa istituzione repressiva potrà poi utilizzare i dati pubblicati contro le persone come un'arma a doppio taglio. Quindi in quel caso lì le persone che pubblicano devono saperlo, perché nel momento della pubblicazione c'è comunque un rischio. Nel caso del mondo in cui viviamo oggi, il mondo in cui viviamo noi, che non è la Cina né la Birmania, per fortuna nostra, le dinamiche sono un po' più complesse, ma possono essere altrettanto schiaccianti. Un esempio, che è un esempio che viene... Ci potrebbero essere tantissimi esempi che vengono dalla cronaca, a partire... Vengo dall'Italia, quindi vi faccio esempi italiani. A partire dalle infermiere del pronto soccorso che pubblicano le foto di quelli che sono arrivati ubriachi al pronto soccorso, ok? Fino ad arrivare ai ragazzi che prendono in giro il compagno disabile e pubblicano il video su YouTube. Va bene. Queste sono situazioni in cui la pubblicazione viene usata in una maniera viziata, ok? Senza preservare la privacy delle persone. Però il rischio che si corre nella società ad oggi, durante la pubblicazione, può essere molto più grande. Per dire, per farvi appunto un esempio completo, mi è capitato per caso di conoscere questa ragazzina di 13 anni che a 13 anni, vabbè, è piccolina, però usa Facebook ed è la più bella della classe, ok? Deve fare l'esame di stato delle medie. Deve fare l'esame di stato delle medie ed è brava a scuola ed è la più bella della classe, quindi tutti la invidiano e chiacchierano di lei perché si mette il rossetto in classe, ok? Chiacchierano di lei dove chiacchierano di lei? Non le chiacchierano di lei in faccia, chiacchierano su Facebook, ok? E dicono cose molto strane del fatto che lei si mette il rossetto in faccia, va bene? A un certo punto, prima dell'esame di stato, perché in Italia dopo le medie a 14 anni si fa un esame di stato, prima dell'esame di stato la madre della ragazzina va dalla professoressa di italiano e si sente dire che la ragazzina ha delle bruttissime frequentazioni, che su internet si possono scoprire cose molto brutte su di lei, che dovrebbe essere più seguita e più controllata dai genitori, perché è evidente che c'è una carenza educazionale, questo a prescindere da voti ottimi. La madre torna a casa sconvolta, chiude la ragazzina in casa per una settimana. Dopo 2 settimane la ragazzina ha l'esame di Stato, ok? Esame di Stato con commissione esterna, una cosa formale, va bene? La ragazzina il giorno in cui dovrebbe andare all'esame di Stato ha paura di entrare a scuola, non vuole fare vedere la sua faccia a scuola. Quello di cui la professoressa aveva parlato alla madre è una cosa totalmente inventata, non esiste, ok? Nasce da una foto che è stata messa su Facebook dagli amichetti, va bene? E da lì si è scatenato la famiglia tutta in scompasso, perché questa ragazzina non si capiva che cosa doveva aver fatto. Il problema, cioè, non esisteva in realtà. C'era un abuso di potere da parte di una persona che era l'insegnante, che aveva un certo potere sulla ragazzina e che ha utilizzato il social network per poter colpire la ragazzina nel privato, nell'ambito familiare, va bene? Questa è una cosa che succede, può succedere a scuola, può succedere con un datore di lavoro. Quindi utilizzare Facebook da parte di una ragazzina di 13 anni, voglio dire, come si diceva anche oggi, i ragazzi giovani, se la famiglia non è abituata ad affrontare problematiche di questo tipo, non sono pronti a rispondere a queste cose. Quindi un meccanismo di potere come quello che ha messo in moto l'insegnante sulla famiglia della ragazzina è stata una cosa devastante. La ragazzina ha perso un anno di scuola per questo, a 13 anni. E questo è scorretto, sbagliato. Può succedere con un insegnante, può succedere con un datore di lavoro. Quindi quello che sta sotto a Facebook, la società che utilizza l'interfaccia di Facebook, che è fatta in certe maniere, perché l'interfaccia di Facebook non ti permette di cancellare il tuo profilo, non permette di togliere i dati che tu inserisci, quindi va usata con molta attenzione. Quell'interfaccia può diventare devastante per la propria vita privata se non la si usa nella maniera più corretta. Coprire le facce, coprire la propria faccia in una foto in cui non si vuole essere visti esserci, è importante per riuscire ad ottenere una cultura del privato, della privacy. Se la ragazzina avesse avuto 2 genitori preparati da questo punto di vista, allora avrebbe potuto rispondere ai compagni faccia a faccia. La madre, quando si trovava l'insegnante che gli diceva guardi che sua figlia ha brutte frequentazioni perché io ho visto su Facebook questo e quell'altro, la madre avrebbe detto all'insegnante il suo ruolo è dare i voti a mia figlia, non guardare Facebook. Si parte però da un presupposto che sono le pubblicità, non so se voi avete le stesse pubblicità a Lugano, però c'è una pubblicità che gira adesso in Italia che dice fatti i fatti dei tuoi amici su Facebook. Con il cellulino, il cellulare portatile, l'ultima moda della LG, adesso facciamo anche pubblicità negativa e con la tastiera QWERTY, tutto figo. Ma la pubblicità è ironica o sono seri? Sono serissimi. Dicono fatti i fatti dei suoi amici su Facebook. Questa è la pubblicità, uno degli slogan della pubblicità. L'impressione è impressionante. Esatto. E niente, queste sono le dinamiche che una cultura, quale può essere la cultura del controllo della punizione, sfruttando certe interfacce che sono appunto interfacce tecnologiche di Facebook, come possono essere di YouTube nel caso del bimbo handicappato preso in giro dai compagni. E ovviamente nel momento in cui si tratta di pubblicazione di un video su YouTube da parte di gente che non sono giornalisti, non gli viene richiesto di coprire la faccia. Dovrebbe invece, seguendo una cultura che sia preparata a questo genere di evenienza, esserci magari quel pulsantino che ti dice Questo, se premi questo pulsantino, c'è l'algoritmo che copre le facce automaticamente, ok? Questo è l'obiettivo che vorremmo raggiungere col gruppo di Indymedia facendo il software di cui ho accennato prima. Cioè, ci sono delle persone che si vorrebbero occupare di diffondere una cultura della privacy su internet tramite i mezzi del web 2.0. Di fatto, i social network, per come sono fatti adesso, sono fatti per usare i dati personali, per raccogliere, sono dei contenitori di dati e di quei dati non si sa esattamente che cosa ne venga fatto. Esiste un termine che si chiama profilazione, okay, che viene spesso usato e che è una pratica molto criticata, ecco, nel senso che è una pratica commerciale che serve a questi portali, mettiamola così, questi social network per sopravvivere. Loro sopravvivono con i nostri dati, con la nostra scia, con la scia che noi lasciamo dentro questi social network. Quando una persona si cancella da Facebook, non so se i presenti si sono mai iscritti e cancellati, il profilo rimane. Basta tornare, basta riattivarlo e esattamente tutto quello che si era pubblicato prima torna visibile a tutti. Loro tengono i dati, tutti i dati. E ovviamente se uno ha una cultura della privacy, allora sa che nel momento in cui lascia i propri dati anche a un portale web, quel portale web ha delle persone dietro. Quindi la persona si deve fidare di quelle altre persone, deve dargli fiducia per lasciargli i propri dati. I termini e le condizioni d'uso servono apposta per quello. E anche la policy, esiste una policy, come esiste in Indymedia, esiste anche per tutti gli altri siti di pubblicazione aperta che adesso sono molto diffusi. La policy dovrebbe servire proprio per questa fiducia, per dare questa fiducia. Di fatto però, la discussione sui social network è ancora più complessa, ok, di quanto lo era la discussione sulle telecamere di sicurezza prima, nel senso che mentre le telecamere di sicurezza chiamano in causa quello che l'utilizzo delle telecamere di sicurezza chiamano in causa il concetto di cittadino, ok, quindi anche la nostra Costituzione, i diritti che noi abbiamo a livello istituzionale, ok, con Facebook, con il mondo globalizzato, il World Wide Web, è più difficile riuscire a definire quali sono i diritti dell'utente, okay? Perché si parla non più di cittadino ma di utente, utente produttore di contenuti, i contenuti stessi non si sa esattamente per cosa vengono usati. Quindi nel momento in cui noi ci troviamo di fronte a Facebook, dovremmo avere lo stesso atteggiamento che si può avere di fronte a una telecamera di sicurezza. Bisogna sapere nel momento in cui si pubblica che cosa si vuole pubblicare, perché se non si sa che cosa si vuole pubblicare o se ci si approccia a queste interfacce senza la consapevolezza che è possibile lasciare dei dati che non si vogliono lasciare, che non bisogna farlo, in quel caso lì è più facile che dei circoli viziosi, appunto, come quelli della ragazzina di 13 anni, possano essere messi in moto. Queste sono cose in realtà di cui ognuno dovrebbe essere consapevole nella sua vita normale tutti i giorni, perché nel momento in cui parliamo con le persone lo siamo, sappiamo che stiamo dicendo qualcosa a qualcuno, ok? Nel momento in cui siamo di fronte a Facebook, non abbiamo di fronte le facce delle persone a cui lo diciamo, ma stiamo dicendo qualcosa a qualcuno e quella cosa poi potrà essere usata da tutto il World Wide Web. La cosa fondamentale di cui parliamo adesso sono i metodi, i mezzi per riuscire a pubblicare senza lasciare i dati troppo personali. Ovviamente io ho fatto, c'è un PDF scaricabile da internet che è linkato, che adesso vi faccio vedere, ma che è linkato alla pagina blog dell'IIP e che vi consiglio di scaricarvi, soprattutto se pubblicate video, che insegna vari metodi con tanti software diversi per coprire le facce. Però di fatto, se anche non siete delle persone che usano dei software di montaggio video, se anche non siete così appassionati di pubblicazione di video, però magari in un certo momento c'è una manifestazione e voi avete il vostro cellularino, no? Cellulare. E volete pubblicare una cosa che sta succedendo in quella manifestazione che voi avete ripreso. Allora magari potreste per pubblicarla sarà bene pubblicarla nella maniera giusta, ok? Cioè pubblicarla senza mettere in mostra le facce, anche se voi non conoscete i software che coprano le facce. Allora, il primo video che vi faccio, cioè il secondo video che vi faccio vedere è una manifestazione di Roma in cui ci sono anche delle facce, tutta gente consenziente ovviamente, però ci sono alcune scene che sono particolari in quanto non riprendono i volti delle persone coinvolte. In particolare, vabbè, non c'è proprio la scena degli scontri, però c'è una scena a lato in cui si vede la gente che scappa e in quel caso lì comunque le persone che hanno fatto gli scontri avevano il volto coperto, quindi in quel caso non è che ci fosse poi tutto questo bisogno. Di fatto il fatto che vi faccio vedere questo video serve a farvi vedere com'è possibile fare un video senza diffondere dati sensibili. Il video è stato fatto con Kden Live, che è un software open source per Linux, che non ha la facoltà di mascherare le facce, quindi è stato fatto in maniera tale da non mostrare le facce dei partecipanti. Era una piccola manifestazione, piccola, non troppo. C'era Bush a Roma, quindi avete visto il dispiegamento di forze che c'era, e di fatto quel dispiegamento di forze era poi si tratta di Bush, quindi si tratta di un dispiegamento di polizia che ha potuto esserci per quella stessa cultura della paura che è nata con la questione del terrorismo nel 2001, ok? Quindi ha senso comunque far vedere il video così com'è per mostrare i risultati della cultura della paura. È un videino di media, non è niente di particolarmente interessante, è stato fatto in una certa maniera. E niente, adesso bisognerebbe passare al PDF. Il PDF c'è sia in italiano che in inglese, ok? Ed è scaricabile dal sito del LIP attualmente. Adesso appena trovo, non ho messo il mouse. A bloccarsi, ok, non si è bloccato. Allora, in realtà costruire maschere è piuttosto semplice. Ah, ma è proprio il proiettore che era calibrato male. Probabilmente non so bene che c'è un problema di risoluzione. Beh, meno male che non era un problema del video. Comunque spero che più o meno abbiate capito quello che volevo spiegarvi con quel video lì. Questo PDF appunto è scaricabile dal sito del LIP. Ci sono diversi software affrontati. Il primo software che faccio vedere è Cinelerra. Non è un'applicazione cross platform, è un'applicazione che funziona solo su Linux, però è l'applicazione che è stata usata per fare la maschera nel primo video che avete visto, quello sulle telecamere di sicurezza. Se avete notato, c'è solo lei colorata, tutto il resto è in bianco e nero. Quel effetto è stato ottenuto con una maschera. L'idea di maschera viene dalla camera oscura, okay? Perché nella camera oscura c'era l'ingranditore e per coprire una parte di foto, per mettere in luce una parte della foto, si usavano delle maschere di cartone che coprivano la luce in maniera che sulla carta non venisse impressionata o venisse impressionata solo una parte dell'immagine. Da questo il nome maschera. I software più usati di montaggio video che vengono analizzati qui, ci manca Windows Movie Maker, però ho dato per scontato che funzionasse più o meno come i Movie, che è il software che viene distribuito dalla Apple, in cui si usano le immagini, con un'immagine il bianco e il nero determina se viene utilizzato in una certa modalità, che è la modalità tra virgolette matte, adesso non so assolutamente come venga pronunciato in inglese, questa modalità permette di mascherare le immagini e quindi permette di applicare ad esempio un effetto che può essere un effetto di sfocatura solo a un pezzo dell'immagine, ok? Nel momento in cui viene applicata la sfocatura, quella faccia o quel pezzo di immagine, quel dato sensibile che l'immagine, che è un'informazione, racchiude in sé, Figurati, cioè, devo dire, cosa hai fatto? E niente, appunto, dove eravamo? Ecco, quella parte di immagine mascherata o non mascherata, mascherata nel caso, sarà coperta dall'effetto di sfocatura, quindi quel dato non verrà rilevato nell'immagine. Dunque, qua vengono affrontati diversi software. CineLR, appunto, è software per Linux e non è cross-platform, purtroppo. E viene affrontata nelle prime pagine. Dopodiché si parla di iMovie, e qui è proprio esattamente come vi ho spiegato. Cioè, bisogna aggiungere un'immagine nella timeline, si mettono i due clip uguali, lo stesso clip, ok? Si mette l'immagine in mezzo e quell'immagine, l'effetto sull'ultimo clip. Quei due clip finiranno sovrapposti e l'immagine in bianco e nero determina qual è la parte del secondo clip che verrà vista o non vista. Quindi in questa maniera, mettendo l'effetto di sfocatura nel secondo clip, si otterrà una parte dell'immagine sfocata. Ok? Questo è più o meno lo stesso procedimento che segue anche CineLR, nel senso che quando avviene una mascheratura, CineLR che è software non cross platform che abbiamo visto prima, nel momento in cui avviene una sfocatura ci vuole una mascheratura, ci vuole una traccia sotto che è quella che fornisce i dati di tutto il video. Dopodiché il dato del video di per sé, il dato coperto dalla maschera, sarà poi avrà poi un effetto di sfocatura o quell'effetto o i pixel, come vanno tanto di moda tra i giornalisti italiani. Dopodiché ci sono ci sono anche altri software, i software dell'Adobe. Vabbè, qua è ancora in movie, potete vedere la maschera con l'immagine della maschera. E poi c'è Premiere, che più o meno funziona come tutti i software dell'Adobe, nel senso che Premiere ha proprio una finestra a parte. Vabbè, c'è anche Final Cut che ha diversi modi per fare le maschere. Final Cut si possono anche muovere, si può fare tutte le animazioni del mondo. Per quanto riguarda invece Premiere, c'è una finestra a parte, non bisogna mettere usare due volte il video, bensì si può tranquillamente usare la maschera e applicare un effetto solo alla maschera, però questo per Premiere, per l'Adobe. Anche After Effects credo che funzioni nella stessa maniera, apre una finestra in cui è possibile spostare la maschera nei vari frame, quindi animarla, ecco, per fare in maniera che segua la faccia che è da evidenziare oppure da coprire. Il tutto è scritto qua abbastanza fedelmente. Questo Final Cut e questo è già Premiere, sì. Vedete, c'è la finestra, anzi vi faccio vedere qui, c'è la finestra. Di là ci sono i tipi di maschere, poi dopo la si può muovere. E cittadinanza, ok? Basta. Avete domande? Se possiamo specificare in totale. In totale? No, cioè, come volete voi. Domande. Prima domanda, vorrei fare un'osservazione. Prego. Nel senso che il gruppo di cui facevo parte, adesso non ci faccio parte perché mi sono trasferito da Veneto qui in Svizzera, stavano pensando di cominciare a mettere tra i, non dico capigruppo perché non so di capigruppo, comunque fare un gruppo, diciamo, di referenti regionali, a fare automaticamente un sistema che criptasse con TCP tutte le comunicazioni tra i gruppi regionali, eccetera. Tutto questo è molto bello, molto interessante, serve perché, per carità, piuttosto che far girare comunicazioni su quando organizziamo la prossima manifestazione a Londra in modalità, preferisco non farlo sapere a chi potesse con un mandato andare all'ISP e chiedergli il contenuto della mia casella di posta. Il problema è un altro, il problema è che per carità tutte queste cose servono perché comunque lasciarsi dietro una traccia è pericoloso, perché anche soltanto il mio essere stato appartenente a un gruppo potrebbe attirare, tipo su Facebook, potrebbe attirare delle attenzioni, potrebbero essere, potrebbero portare a problemi, anche soltanto a problemi, cioè tipo sì, di stare dietro a una cosa che non ha senso. Esatto. Il problema è che, come ho visto, nei gruppi, non soltanto nei gruppi di attivismo, ma nel mondo del lavoro, nel sistema, nel settore del credito, mm-hmm, ma anche una cultura della sicurezza, ovvero il mio... È vero. Ho bisogno di fare degli esempi che non compromettano nessuno. No, no, è vero quello che dici, quando parlo di cultura della sorveglianza. Ah, okay. Per esempio, lo scorso dicembre c'erano le riserve, cioè nel senso c'era ad Atene, c'era un bordello incredibile. Non so se vi ricordate quello che è successo, dei poliziotti avevano ammazzato un ragazzo quindicenne. Mi ricordo precisamente. E quindi ad Atene c'era... Poi gli ateniesi, cioè i greci, gli anarchici greci, quando sì, esatto, si incazzano. Gli anarchici greci hanno messo a ferro e fuoco alla capitale per un po'. Giustamente, avevano ammazzato un ragazzino. E il problema è che c'era uno che insomma noi non conoscevamo, era arrivato da Salvo Blasio, credo fosse arrivato da Edimburgo, dove c'era una manifestazione della Scott più grande di fronte all'ambasciata. E praticamente quello che era successo è che era venuto alla nostra riunione al gruppo di Glasgow e aveva cominciato a dire cose che, visto che eravamo in un pub alla riunione, che se era meglio non dire, che era decisamente meglio non dire, nel senso, se fortunatamente tutte le persone attorno al tavolo ci conoscevamo, ma se fosse arrivato qualcuno nuovo al gruppo, io sinceramente avrei avuto dei dubbi, nel senso, potrebbe essere stato un non dico un infiltrato dei servizi segreti, perché però anche un qualcuno della polizia, non so, qualcuno del gruppo neofascista, insomma, le possibilità sono infinite. Il discorso è che appunto i sistemi informatici ci danno questa fantastica possibilità di condividere i dati, però non è l'unico modo in cui lo facciamo. Le videocamere sono un altro modo, però anche quello, per quanto possa essere alla fine estremamente poco efficiente per riconoscere le persone, bisogna anche molto stare attenti a quello che facciamo quando non ci sono telecamere, non ci sono non c'è il computer in giro. Semplicemente, se io dovessi andare a un un festival fascista, un culturale, sì. Sì, un festival fascista, come ce ne sono nel Regno Unito, del British National Party, e arrivassi lì con il mio portatile, con la scheda, quella per avere internet, tipo un MTS, e tipo offrissi internet a tutti, cioè nel senso, se qualcuno mi chiedesse di usare internet, glielo do, molto bene, cosa faccio? Gli scrivo tutte le password delle loro case di posta elettronica. Vabbè, fare il minimo. Quindi, e lì dipende dalla furbizia della persona che sa che sta usando il computer di qualcun altro e che sì, può avere il lettore di tastiera. Appunto, anche accettare persone nuove in contesti grigi, cioè nel senso, la cui legalità è sì, sì, comunque, non chiara, è estremamente... ecco, però quella cosa lì, nel senso che il fatto di non accettare le persone nuove a prescindere è sbagliato, perché è cultura della paura. Sì, è anche vero che bisogna portare persone che si conoscono. Sì, sì. Allora, però si parla di ambiti che non sono, esatto, quello di cui parlavamo prima, e lì vuol dire che la nostra cultura, per così come è fatta, il problema della fiducia non lo risolve. Lo risolve con dei termini di utilizzo che nessuno si legge. Messenger tiene le discussioni per 5 anni legalmente, cioè dichiara di tenere le discussioni degli utenti per 5 anni. Se voi andate nel sito della Microsoft, ci sono gli studi linguistici sul linguaggio dei giovani su Messenger, ok? Cioè, la gente che si analizza il linguaggio per fare degli studi teorici probabilistici su come sarà la lingua del futuro, che è anche una cosa nobile. Cioè, potrebbe anche essere una cosa poco opinabile rispetto ad altre cose. Poi, insomma, detto questo, sì, cioè io penso che il problema sia a prescindere dalla tecnologia che può essere sicura e insicura, perché ci può essere la tecnologia più sicura del mondo e quello che gestisce il server, che è uno stronzo che fa avere i dati tutti quanti, capisci? Per cui dopo i discorsi tecnici lasciano un po' il tempo che trovano, nel senso che è un problema di cultura a livello sociale. Se nelle famiglie, se mio padre o il padre di Antani, ok? E il padre di Antani è uno che controlla molto, che ha la cultura del controllo, nel senso che è uno che l'unica cosa che sa fare con suo figlio non è magari dargli una direzione nella vita, ma è vedere, stare lì sempre a guardare che cosa il figlio fa, ok? E pensa che sia questo essere padre. Allora è quella cultura, ok? Allora quel padre lì, nel momento in cui si trova l'insegnante che gli viene a dire certe cose del figlio, cosa fa? Non so, reprime il figlio fino a, non so, che poi il figlio non ha più il coraggio di far vedere la faccia in giro, ma fisicamente, non su Facebook. E quella è una cosa grave, perché l'abuso di potere poi non so. Si potenzia all'ennesima per N, no? Perché manca una cultura che è quella che sta sotto. Quando dicevo prima che non bisogna prendersela con la televisione, perché se in televisione ci sono tette e culi, vuol dire che la gente apprezza solo i tette e culi, allora deve andare dalla gente a parlare, non deve andare con la televisione. Uguale vale per internet, ok? Facebook è fatto in una certa maniera, il garante della privacy parla di Facebook in un certo modo, però di educazione alla socialità nelle persone manca. Ci sono telecamere di sicurezza, ma non c'è educazione alla socialità e la gente si sente sicura con le telecamere di sicurezza perché c'è una cultura che è quella, ok? E allora, adesso guardo bene la frase del video perché era veramente carina, cioè è presa da una mail di chi è che frequenta la mailing list di Hack Meeting qua? Leo? Ha una mailing lista. Sì. Sì, è una mail delirante di Bomboclat che però la frase è bellissima. Che è stata mandata per il Freedom Not Fear. Ed è bella perché proprio fa capire come in realtà una società che infonde delle paure, perché ci si guadagna sulle paure delle persone, è sempre stato così, lo diceva anche Machiavelli nel Principe, ok? Non è una cosa nuova. Però nel momento in cui, sì, è il mio, no? nel momento in cui la società si basa sulla cultura della paura, allora può venire fuori il Grande Fratello. Chi è che ha letto 19, no, 1984? 1984. Che alla fine che cos'è che usa il Grande Fratello se non la paura? Una paura irrazionale del protagonista. E insomma, queste sono, cioè, su questo si basa la società del controllo, ma la società del controllo nasce da tanti. Il panopticon è una cosa vecchissima del 1800, ed è un carcere. I nostri carceri sono costruiti su panopticon, cioè uno degli antecedenti è quello. Il controllo e la punizione. E allora è la cultura che sta sotto che deve essere combattuta. Poi, ok, si possono usare come accidenti le telecamere di sicurezza, ci si può fare il video per far capire alle persone, però. Come esistono le telecamere di sicurezza, esiste un Facebook che ha tra il suo gruppo dirigente uno che era della CIA, e allora a me, che ci guardo, perché guardo i nomi delle persone che sono tra i capi, ok, tra virgolette, di Facebook, mi viene un minimo di dubbio, ma tanto così, ecco. Detto questo, insomma, sono contenitori di dati, non c'è solo Facebook, c'è anche archive.org, c'è anche Indymedia, è un contenitore di dati, indubbiamente, ha una certa policy, ok? E il fatto che, ad esempio, Indymedia preservi i dati personali, non loghi gli IP, quando è successo che Indymedia Francia ha dato gli IP a non mi ricordo chi, non mi ricordo neanche per cosa, è successo un casino in tutto il mondo, cioè Indymedia sono tutti scandalizzati, Indymedia non ha mai fatto una cosa del genere. Perché Indymedia è una certa situazione, Facebook invece è un'altra. E voglio dire, chi è che gli dice che io sono iscritta a una mailing list che non si chiama 1984, si chiama No 1984 ed era contro il Trusted Computing? A un certo punto uno ha tirato sulla polemica su Facebook e ha detto: io mi sono aperto il profilo Facebook e a me mi serve, perché io trovo delle persone che sulla questione del Trusted Computing sono sensibili e li trovo su Facebook. Allora io personalmente quando gli ho dovuto rispondere gli ho detto beh tu comunque devi renderti conto che metti in moto certi meccanismi, stai utilizzando un certo mezzo, che il tuo messaggio inevitabilmente lo devia in quella direzione, ok? Per cui non so, la persona che magari in quel momento ti dice ok hai ragione sul trusted computing perché io ho il computer tali e tali e non riesco a fare, e già quelli di Facebook sanno che quella persona ha il computer delle tali, quindi fa il lavoro delle tali perché ha pagato quel software e non riesce a installarne nell'altro. Banalmente, allora tu nel momento in cui vuoi comunicare qualcosa sul trusted computing, però sai che tramite Facebook metti in moto certi meccanismi, ok? E quindi fai in maniera che quella persona vada a raccontare i cazzi suoi su Facebook e magari tu non ce ne hai voglia né di sapere dei cazzi suoi di quella persona né che quella persona ha dei cazzi suoi su Facebook, quindi non ti fai il profilo. Ti fai una pagina web in cui spieghi la cosa e mandi il link. Insomma, non ci vuole tanto impararsi l'HTML, ci sono riuscita io. Poi, insomma, detto questo, l'unica cosa secondo me che bisognerebbe tenere conto è, di cui bisognerebbe tenere conto è il fatto che di fronte alle tecnologie come di fronte alle persone ci vuole un certo modo di comportarsi, una certa lucidità nella distribuzione dell'informazione, che è una lucidità non a livello di che è poi il livello di Facebook e del web 2.0 in generale. Perché nel momento in cui parliamo di Web 2.0 parliamo del gruppo che vuole avere sbocchi internazionali e quindi va su MySpace, ok? E vuole fare il figo, quindi ci mette tutte. Allora quello è il protagonismo, quello da televisione, la spettacolarizzazione, ok? All'interno di questa spettacolarizzazione ci sta il vizio, ok? Il fatto dei dati personali che tu cedi, va bene? Però nel momento in cui tu vuoi comunicare un contenuto, come dicevamo oggi in Indymedia, e non hai interesse che ci venga fuori il tuo nome, tu vuoi comunicare una cosa, è un conto. Nel momento in cui invece tu quel contenuto fai una cosa che hanno già fatto in 150.000, però tu vuoi farla tu e vuoi metterci il tuo nome, allora lì scatta la profilazione, scatta il social network. Per questo parlo di dinamiche viziate che stanno sotto. Sì. E per quello la società del controllo delle telecamere passa direttamente al web 2.0. Però ci passa tramite la mentalità che noi siamo che noi abbiamo nell'utilizzarlo, noi nel senso generale, nel senso di utenti, ok? L'utente l'infermiera del pronto soccorso di Torino che ha voglia di ridere con gli amici, allora mette fuori tutte le foto della gente. Perché così è più simpatica. Infatti. Detto questo, probabilmente ci sono quelle 10 persone a cui lei è stata simpatica in quel momento per quel post. Perché è molto difficile come discorso, anche i gruppi che vengono a suonare qui al Molino, che sono tutti gruppi già quindi un po' selezionati, un po' schierati, hanno tutti il MySpace per farsi conoscere e ti dicono vai a sentirmi lì. E in generale anche su Indymedia, poi i gruppi che hanno le foto con i volti mascherati, il commento tipico è ma cosa avete da nascondere se non avete fatto niente di male perché vi cancellate? È proprio difficile anche all'interno del movimento, fra gente un po' più... sensibile, quindi un discorso Diffondere, sì. Questo lontano e tipo di cultura è vero che è difficile, però la cultura del non hai niente da nascondere, quindi mostri tutto, a parte che a lungo termine non paga, nel senso che si diffondono appunto dati a iosa senza la consapevolezza di quello che si fa. E quindi di fatto è come se non lo si facesse, perché non si ha un contenuto vero e proprio da diffondere. E poi insomma, boh, io personalmente ho sempre, cioè di fronte alle persone che mi dicono ma che cosa hai da nascondere, ho sempre pensato che, cioè io poi a livello umano le cose giuste le dico nel momento giusto, poi dipende proprio dalle persone. Nel momento in cui si pubblica su internet e su Indymedia si dà per scontato che si vuole comunicare qualcosa. Se quello che tu vuoi comunicare non è la faccia, perché devi comunicare la faccia? Poi vabbè, insomma, a me è capitato dei post con delle pubblicità delle foto di manifestazioni, mi ricordo, con il logo del fotografo in, sopra, no? Che dicevi, oh, dunque, ci sono 200 persone a cui non hai coperto la faccia, in più ci hai messo pure il logo. E lì, vabbè, sì, c'era proprio una discussione da admin con i commenti, un pochino glielo puoi spiegare. Se ti dicono, se tu non hai niente da nascondere, tu gli dici, io volevo dire una cosa, non volevo mostrarti quella faccia. E boh, insomma... Le manifestazioni la faccia ce la si mette, però. Ma sì, ma infatti non è di per sé, nel momento in cui discutevo di quel post, discutevo della pubblicità, però gli ho messo anche la questione delle facce, perché ha ragione lui, perché è una cultura, quella della privacy, che va diffusa. Nel senso che, appunto, le dinamiche come quelle della ragazza tredicenne magari succedono a lei, magari succedono a te sul luogo di lavoro, e tu puoi dire è sfortuna, ma non è sfortuna, c'è una cultura sotto. E nel momento in cui si riesce a neutralizzare un modo di pensare, che è quello del dimmi tutto, quello del volere tutto, che alla fine vuol dire non volere niente, vuol dire non concentrarsi sul concetto che viene passato dall'informazione, ma concentrarsi sul nome, ok? C'è un vecchio detto che si dice il peccato ma non il peccatore, che è un'antica saggezza popolare, che ha a che fare con la privacy molto di più di quanto, di quanto si pensi, nel senso che, Indimedia, fare un post su internet in generale, anche su un blog, è un'azione che tu fai. La comunicazione che tu fai è potenziata all'ennesima potenza, ok? Quindi tu devi considerare che nel momento in cui consideri qualcosa, quella cosa un risvolto ce l'ha sicuramente da qualche parte, se viene letta, anche solo una volta. Se tu vuoi farle avere il risvolto che vuoi tu, allora devi concentrarti su quello. E nel momento in cui non preservi la privacy delle persone, ci metti anche i nomi, ok? Per dirla tutta, allora in quel momento si può creare si può generare un pericolo a prescindere, soprattutto se quelle persone non sanno di avere i propri nomi pubblicati, ma si può creare confusione, ok? Perché la comunicazione può non puntarsi su quello che tu volevi comunicare, ma puntarsi sui nomi. Questo, vabbè, è un discorso che può essere fatto per qualsiasi cosa, anche per me che vado a dire della mia pronipote una cosa e poi qualcuno mi tormenta per dei giorni per sapere il nome e cognome della persona che ha fatto quella cosa. Sono dinamiche che a livello sociale, nei piccoli gruppi, anche dentro un pub, si vedono moltissimo, sono palesi. Non siamo capaci, non siamo pronti ad affrontarli in larga scala, come può essere un Facebook, come può essere un YouTube. Sarebbe opportuno, ripeto, per questo che è partito il progetto del software, sarebbe opportuno che la persona che pubblica avesse l'opportunità di coprire le facce nei video, cioè sapesse che quella chance è plausibile, e non perché abbia qualcosa da nascondere del video, perché il contenuto può passare benissimo senza l'identificazione della persona. Pitagora, con chi è che parlavo di Pitagora prima? Con te. Allora, nomi multipli, voi sapete, Luther Blissett vi dice niente? Allora, Luther Blissett è quello che ha scritto Q, che è da leggere, leggetelo, è carino. È un libro scritto a più mani, è un nome multiplo. Nome multiplo vuol dire che delle persone, anche molto brave, hanno scritto Q, che è uno dei libri più in italiano più letti in tutto il mondo, sono delle persone che hanno deciso di scrivere un libro ma di non metterci il nome, e hanno usato Luther Blissett come è un nome beffa, perché Luther Blissett era un giocatore di calcio, ok? Era un giocatore di calcio comprato dal Milan nella stagione, aspetta, me lo ricordo la stagione, era l'83-84, e questo è stato comprato per un casino di soldi e non ha mai fatto un gol, ok? In due stagioni, per cui è stato, diciamo, preso il suo nome come beffa, che è la beffa mediatica. Luther Blissett è stato in Italia, il Luther Blissett Project è stato un momento in cui c'erano interi gruppi che facevano performance, facevano beffe mediatiche, hanno fatto la beffa a chi l'ha visto. Se andate sul sito lutherblissett.net vi divertite tantissimo a leggere quello che hanno scritto. Nome multiplo, non è nato con Luther Bissett. Il primo nome multiplo nella storia che si conosce è Pitagora. I pitagorici famosi, non si sa se c'è stato un vero e proprio Pitagora, perché i pitagorici tutte le volte che venivano arrestati, tutte le volte che avevano dei confronti con l'istituzione, loro si chiamavano Pitagora. Quindi esistono tantissimi Pitagora e non si sa se Pitagora sia mai esistito. I pitagorici, vuol dire, cioè, il teorema di Pitagora lo studiamo a scuola da bambini tutti quanti, il contenuto direi che è passato. È rimasto un nome che non è un nome, che non serve a identificare nessuno, ok? Poi vabbè, il no copyright, tutta una serie di filosofie vengono da qua, ok? Nel senso che ci sono persone, Luther Bissett sosteneva che l'identità è una cosa imposta, ok? Non è una cosa che noi abbiamo. Sosteneva che in realtà tutte le cose che tu fai o che tu pensi sono un accidente di qualcosa che ti è passato da qualcos'altro. Quindi non è che puoi dire che sono tue originali, perché c'è qualcun altro sicuramente che prima ha fatto una cosa simile. E tu, che so, hai guardato quel bicchiere, hai visto, che so, quella sfumatura tutta strana, e con quella sfumatura ci hai fatto un video che con una luce strana, e poi dici che è tuo originale, ma non è tuo originale perché è del bicchiere. Oppure, insomma, il Terbisse, loro sostenevano che non esistesse una cosa originale che potesse essere firmata da un autore. Cioè che la firma dell'autore o comunque dell'individuo fosse una cosa imposta da una società che ha bisogno di un autore per fare delle cose creative, per riconoscere che è una cosa creativa. Poi vabbè, Luther Bissett porta la riflessione all'ennesima potenza, nel senso che è abbastanza devastante nei risvolti. Lutherblissett.net, Luther col TH, Blissett con due T. Boh, insomma, Indie Media è nata con questo tipo di mentalità sotto, comunque, e nel senso che è nata senza badare alla fonte della notizia, è nata per diffondere la notizia, per il bisogno della diffusione della notizia a prescindere dal nome. E lì sotto c'è una cultura del riuscire, perché in effetti cosa dice Luther Bissett? Che l'individuo serve allo Stato per poter additare qualcuno, che serve all'istituzione per poter identificare un colpevole. E boh, insomma, questo può essere opinabile ovviamente, come tutte le cose di Luther Bissett, però è interessante come tipo di riflessione, soprattutto alla luce di certe situazioni che si possono trovare su Facebook. Molto. Altre domande? Nessuno? Ma più che una domanda, anche una semi-riflessione. Il problema però del trattamento dei dati che possono essere personali oppure meno, però è su due livelli, perché la profilazione può venire fatta sui dati di una persona, quindi voglio venire a sapere chi è che ha fatto cosa, però ad esempio con l'utilizzo dei social network eccetera, io sento tantissima gente che dice: ma tanto io non utilizzo il mio nome, utilizzo il mio nickname, e quindi io con l'aspetto della privacy sono assolutamente a posto. E questo assolutamente non è vero, è per sbagliato. Due motivi. Il primo, perché tanto riescono a risalire chi sei, e il secondo perché probabilmente a chi fa della profilazione e a chi utilizza questi dati per poi non interessa il tuo nome, ma interessa cosa fa la massa, rispetto come reagisce la massa rispetto a certe cose e tu come ti muovi all'interno della massa. E a proposito di questo, è per questo che fanno ad esempio tutti questi giochi, tutti i quiz dove chiedono alle persone cosa ne pensano eccetera, perché alla fine anche se io mi creo un'identità virtuale, quando rispondo io come persona fisica, non come Paperino, come posso poi chiamare, come nickname, eccetera. Esatto, e per quindi la si può porre su due fronti, è una questione... Al di là del nome, certo, sì. Sì, la profilazione è un meccanismo a parte ed ha i suoi rischi, a prescindere da quelle che sono le discussioni che abbiamo tenuto stasera, perché una cosa è l'insegnante che abusa di potere sulla ragazzina, una cosa è la persona che ti fa il profilo su quello che tu fai e i modi che tu puoi avere per riuscire a sfuggire a questa profilazione. Però la profilazione è strategica, ok? Nel senso che c'è una cosa, una persona che gestisce il server o che gestisce l'interfaccia, che prende, raccoglie i dati, ok? E li raccoglie in un punto centrale, quindi in una posizione di potere, ok? Per sfuggire alla profilazione bisogna riuscire a usare la tattica, ok? Cioè bisogna riuscire a non essere se stessi sempre, va bene? Cioè riuscire a sgusciare all'interno degli schemi, e questo è un metodo di difesa rispetto ai meccanismi della profilazione. Esatto, infatti per questo si parla di implementazione di un software per coprire le facce nel web 2.0, perché è di fatto aperto, quindi noi ancora possiamo agire su di esso. Il ragionamento che facevo con questa persona, il quale mi diceva: ah, perché Facebook è demonizzato, perché la gente ne parla troppo male, in realtà serve per diffondere informazioni, io quello che gli ho risposto è stato: tu puoi diffondere informazioni sul web, ok? Facendoti una pagina web senza neanche aver bisogno di usare un CMS, ok? Basta che ti fai l'HTML e scrivi le frasi che vuoi scrivere. Se usi Facebook devi essere consapevole che entri all'interno di un certo tipo di meccanismi, ok? Quindi sarà la gente che ti chiama dicendoti questo genere di cose, quindi aiuterai a diffondere e a pubblicare, la gente a diffondere e a pubblicare informazioni con questa interfaccia che ha questi fini, cioè il mezzo che tu usi per comunicare una cosa plasma moltissimo la cosa che tu fai, nel senso che l'obiettivo che tu vuoi, il contenuto che tu vuoi passare, se lo pubblichi in una pagina HTML che è così, la gente lo legge e poi si fa i cazzi suoi magari e se lo dimentica. Se lo pubblichi su in media magari lo legge, ci pensa e non si fa i cazzi suoi, fa un commento. Ok, se lo pubblichi su Facebook magari fa il commento in cui parla del suo computer, ok? E quindi già Facebook sa che quel computer, quella persona ha quel computer. E allora magari a te o a me, che a me dà fastidio questo genere di dinamiche, ok? Nel momento in cui vedo che uno mi risponde così, dico: non mi dà soddisfazione, ok? Però magari invece nel momento in cui, faccio un altro esempio, Cinelera Server, così diffondiamo un po' le robe. Nel momento in cui pubblico il mio video su Cinelera Server e ci metto il targi Z con il sorgente, è un conto, ok? Nel momento in cui lo pubblico su YouTube è tutto un altro conto, perché comunque su YouTube quel video, solo perché c'è scritto, che so, nel titolo c'è scritto girl, allora tra i video correlati ci sarà Beyoncé, o com'è che si chiama, com'è che si dice? La tipa, ci sarà Britney Spears, ok? E allora magari a me gli dà fastidio che ci sia Britney Spears tra i video correlati solo perché io ho chiamato il mio video girl, ok? E allora lo pubblico da un'altra parte. Poi su YouTube magari ci posso mettere il link ai sorgenti, però c'è un altro mezzo che è appunto Cinelera Server, che mi permette di pubblicare il video e di pubblicare il sorgente in una maniera molto aperta, molto, in cui è molto più semplice condividere il sorgente del software aperto che io sto usando con altre persone. E allora quello sarà un tipo di comunicazione, quello di YouTube sarà un altro tipo di comunicazione. Il problema è che sia Cinelera Server sia Indymedia hanno un pubblico piuttosto ristretto, e se uno attualmente si prefigge l'obiettivo di allargare un po' il pubblico, prendendosi la fetta comunque di utenti critici che usano Facebook cercando di sfuggire in qualche maniera la profilazione, magari si potrebbe cercare di, non so, pubblicare anche un articolo su Facebook, che ne so, o un filmino, così puoi dire: guarda che comunque l'intero film è su Cinelera Server con i sorgenti eccetera eccetera, vai a vederlo. Esatto. Cioè quasi una maniera di contaminare gli altri più che tu andare a usare il loro Facebook per pubblicare la totalità delle cose che pubblichi comunque. Però intanto Facebook sa chi è andato a vedere quel video. È un po' un compromesso, so, certo. Ah, il compromesso bisogna scenderci, però comunque, certo. Cioè, il ragionamento che facevo con quella persona che dicevi tu era questo: cioè tu comunichi un contenuto, quel contenuto con il mezzo che tu stai usando per comunicarlo, in mezzo diventa qualcosa di diverso, e di questo tu ne devi tenere conto. Se non ne tieni conto, allora ti prenderai anche delle conseguenze di cui hai deciso di non considerare le caratteristiche. Il fatto che sicuramente ti dà l'impressione di avere un'utenza più ampia, Poi insomma c'è gente che lo trova appagante come te perché ha voglia di parlare con la gente e allora lì ho un conto. C'è gente ad esempio che so, ho conosciuto un artista italiano che poi non è un artista, è un ex giornalista, è tipo pubblica con Creative Commons, però c'ha sto fare da artistoio, no? Da proprio da pittore, che è una cosa fastidiosa, sai quelli con la puzza sul naso. E quando eravamo lì che parlavamo di un concorso, e niente, mi fa, però io non voglio mica che mi pubblicano il video su YouTube, perché se me lo pubblicano su YouTube poi mi scade, perché c'è troppa gente, è un brutto posto e ci mettono tutti i video. Gli ho detto, senti, nel momento in cui tu pubblichi il tuo video online, poni che caso che c'è uno che gli piace, ok? Lo prende, lo scarica e poi lo pubblica su YouTube. Tu che cazzo gli dici? Cioè, io sarei anche contenta che l'ha preso, l'ha scaricato e l'ha pubblicato da un'altra parte, perché così c'è più gente che lo vede, a prescindere dal fatto che sia YouTube o no, ok? Poi, detto questo, se io quel video non lo volevo pubblicare con delle facce, è meglio che le copro subito, a prescindere, ok? Perché pubblicare, che sia su YouTube, che sia su Facebook, che sia su Indimedia, è uguale, è sempre pubblicare, ok? Poi, ovviamente, ti trovi in una situazione diversa ad ognuno, a prescindere. Io personalmente, se mi prendono un mio video e lo mettono su YouTube, come ho detto prima, sono contenta, perché vuol dire che la gente li vuole vedere. Magari io ho usato PolyTube, che c'è il JavaScript, e quelli che hanno Explorer non riescono a vedere PolyTube, quindi qualcuno l'ha messo su YouTube. Io magari non lo faccio perché uso altre cose, però se anche qualcuno lo fa, io non è che mi sto ad arrabbiare, ok? Poi ognuno trova le soddisfazioni come può trovarle. Abbiamo parlato degli Open Movie Project, no? Cioè, la gente che fa gli Open Movie Project, quando gli dici guarda, ho usato questa scena con quella cosina lì per fare quest'altra cosa che è troppo figa, loro sono contenti. Scusa, cosa? Open Movie Project sono dei progetti di video, sono dei video molto brevi, fatti in 3D per lo più, che sono stati fatti con un software open source che è Blender. E sono, tra l'altro, sono tutti pubblicati con licenza totalmente aperta, solo con attribuzione, possono essere usati anche con lo scopo commerciale. Sono proprio dei veri e propri progetti, ci prendono finanziamenti, fanno implementazioni del software durante il progetto e poi pubblicano i sorgenti, quindi tutti possono cambiare, riutilizzare, fare quello che vogliono. Ed è bellissimo vedere queste persone, poi è bellissimo per gente come me, poi magari c'è altri che so che vengono da Hollywood che trovano una cosa totalmente orrida, però a me piace, capisci, che arrivo, non so, io ho fatto due corsi con quattro sfigati di Modena che non sapevano neanche cos'era l'open source, e dopo l'hanno saputo e hanno lavorato con quelli con le immagini degli Open Movie Project e gli è piaciuto, si sono divertiti, ok? E vado dai tizi che hanno fatto quelle immagini e dico, sai che li ho riutilizzati con tre vecchietti che si sono tanto divertiti per un mese e mezzo sul tuo video, e questo è contento. E perché? Perché ho potuto utilizzare sorgente e magari questa persona ci ha preso anche meno soldi di quanto poteva prenderci se faceva qualcosa di a Hollywood o qualcosa di commerciale, però è contento di vedere che qualcuno abbia riutilizzato il suo lavoro, che il suo lavoro sia potuto servire anche per qualcos'altro, e allora è bello. Secondo me è bello.